Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e faccio parte di Energicamente. E nella scorsa puntata abbiamo parlato di musicoterapia. Oggi vorrei rimanere sulla terapia homemade, fai da te a basso costo. E oggi vi parlerò di libroterapia e soprattutto di un'iniziativa molto carina che sono le fatine dei libri. La libroterapia è l'ultima rivoluzionaria scoperta in fatto di benessere psicofisico. Utilizzata da anni negli Stati Uniti e nel resto dell'Europa, è approdata in Italia da poco tempo, ma conta già diversi entusiasti seguaci. La libroterapia o biblioterapia è dunque quella pratica secondo cui, attraverso la lettura di un testo e la condivisione con un terapeuta specializzato, appunto libroterapeuta, o con una serie di membri che partecipano all'esperienza, si avvia un vero e proprio percorso psicoterapeutico finalizzato alla conoscenza di sé e all'empowerment personale. Infatti si dice che leggere aumenti l'empatia che si provi verso gli altri individui. Come è nata la libroterapia? Fu Menninger a introdurre per la prima volta la libroterapia nel 1937 all'interno della clinica psichiatrica in cui operava. Al tempo gli aveva inserito la lettura di vari romanzi nell'ambito del trattamento di alcuni pazienti affetti da disturbi psichici, per riscontrare i benefici e per confermare la sua tesi nel trattato di psichiatra da lui successivamente redatto. Secondo molti studiosi, infatti, il libro va oltre il semplice piacere legato alla lettura, ma diventa velocemente l'altro luogo, condiviso da paziente e terapeuta, una sorta di zona neutrale dove lavorare per il benessere della persona in cura. Numerosi studi hanno attestato la validità di questo trattamento, sia in età adulta che in quella adolescenziale infantile, e i suoi benefici sono stati estesi a tutti i lettori, non solo ai pazienti in terapia psichiatrica, in quanto i libri forniscono continui spunti di riflessione e di confronto anche a livello quotidiano. Ogni testo va bene per iniziare questo tipo di percorso, dal romanzo alla biografia, dal racconto al libro di poesie. La scelta è ampissima, in quanto non esiste un libro più adatto di un altro quando si tratta di ricavarne benessere. Quindi qualche attenzione in più è riservata però a coloro che seguono una linea terapeutica. In tal caso è l'esperto a scegliere un testo che è meglio possa generare una riflessione nel paziente, ma per voi che volete usare il libro come terapia, scegliete qualsiasi libro che vi faccia stare bene, del vostro autore preferito, fatevi consigliare, scegliete un romanzo fra i best seller, fra quelli in offerta, fra i tascabili a poco prezzo, chiedete ai vostri amici qual è l'ultimo libro che hanno letto e che gli è piaciuto, e così potete iniziare piano piano a leggere. Per quanto riguarda invece le persone in psicoterapia, il terapeuta, tenendo conto della persona che ha davanti, la sua storia clinica e del suo vissuto, può garantire così la riuscita del percorso scegliendo il libro. Ognuno di noi invece può scegliere, che non è in questo momento in terapia, di leggere. Si dice che leggere almeno 30 minuti al giorno aiuti le persone a migliorare il suo stato di benessere. Io, in quanto consulente del benessere, vabbè, oltre al fatto che ho scritto un libro che potete scaricare gratuitamente da iTunes e da Amazon, che riguarda il fiore di Bach, o di Bach, oltre a quello mi piace leggere tantissimo i libri. Ho finito il famoso libro della gratitudine di cui vi avevo parlato nella puntata della gratitudine. Ho deciso di portare il benessere alla lettura facendo la fatina dei libri. E che cosa fa la fatina dei libri? Mentre Babbo Natale e la Befana lavorano solo per un giorno l'anno, le fatine dei libri lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Per quanto? Una paga zero, no? Diciamo che sperano che di essere compensate con la gratitudine del portatore che lasciano i propri segreti. Chi sono? Si sta parlando delle Book Fairies. Se le cercate su Facebook troverete una testimonial importante che è la Emma Watson, la famosa maghetta babbana di Harry Potter e Hermione Granger. E queste ragazze soprattutto nascondono libri in posti segreti della città e cercano di promuovere quindi la lettura e in questo caso la biblioterapia. E quindi se qualcuno di voi è di Firenze, mi sta seguendo da Firenze e trova qualche libro sparso per la città, sa che sono io, che li ho lasciati lì per voi. E concludiamo quindi questa puntata augurando un buon weekend di lettura, come mi auguro. Andate in libreria, scegliete un libro, oppure andate in biblioteca, oppure se avete fortuna trovate uno dei miei libri e dedicate questo weekend un'ora alla lettura. Fatevi appassionare dalla lettura. E prima di salutarvi, come sempre, vi lascio i nostri indirizzi www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, la nostra pagina Facebook Energicamente, i nostri numeri di telefono: Francesca 340 23 45 340, Franco 329 89 89 669, e la vostra fatina dei libri Elisa 339 38 60 123. Non chiamatemi per chiedermi dove ho nascosto il libro, perché non ve lo dirò mai. E ringrazio e abbraccio Davide e Giorgio per la bellissima opportunità. Alla prossima puntata.